sono vissuto inutilmente. 27 maggio. La cosa incomincia a diventare quasi insopportabile. Oltre W c'erano ancora nebbia in camera e un gemere che strappava il cuore. Io, sopportate pure il vostro castigo, perché tormentate me, non voglio più sentirvi. Lui, dov'è la tua misericordia? Poi sparì. Rimase tuttavia quel gemere. Ora mi rimorde la coscienza perché ero stata dura. 28 e 29 maggio. Niente. Forse è finito a causa della mia cattiveria. 30 maggio. W triste, cosa che mi ha spinto a dirgli che voglio continuare ad aiutarlo. Allora venne vicino, mi strinse il collo tanto forte che credetti di soffocare. Fu spaventoso. Io? Perché fai questo mentre io voglio aiutarti? Lui, voglio costringerti. Io, non voglio e non mi lascio costringere in questa maniera, assolutamente no. Allora venne di nuovo contro di me con espressione cattiva, sicché non so più ciò che accade. Quando ritornai in me non c'era più. Ho udito la musica. 31 maggio. Ho visto il cavaliere, W fu qui durante il giorno e ho un gran terrore di lui. C'è ancora qualche cosa nella stanza che riesco a vedere. Ma deve sempre andare avanti così? 1 giugno. W fu qui. Dimmi, è volere di Dio che tu venga da me? Lui, noi possiamo. Io, ma perché mi tormenti? È già un tormento abbastanza grande il vederti. Lui, perché in me c'è l'invidia. Io, perché sei invidioso di me. Tu non puoi più dannarti, ma io sì. Lui, io non ho mai tenuto a freno la mia sensualità e sono vissuto inutilmente. Io, come hai potuto essere salvato? Lui, per mezzo del sacerdote. Io, di che cosa puoi essere ancora invidioso, adesso non puoi più peccare. Lui, il male, la cattiveria, è ancora dentro di me. Allora lo vidi così odioso come non mai. Egli ritornò ancora 4 volte. 2, 3, 4 e 5 giugno. Egli venne ogni notte in condizioni tremende e tremendamente ripugnante. Fu una cosa molto penosa. Inoltre sentii ancora molte altre persone dalla nuvola e anche un piagnucolio lontano. Ho incontrato sulla scala la vecchia cameriera. 6 giugno. Ho visto il cavaliere in chiesa sempre uguale, devoto e immobile. W a lungo qui, alquanto incomodo, troppo vicino e non mi diede alcuna risposta. Io mi sento di nuovo un po' più consolata. Io penso che il buon Dio mi manda questa cosa perché esercito troppo pochi atti di carità su questo mondo. Ora io non sono più capace di sopportare come prima. Alla mattina sono così stanca e così quanto perdo. 9 giugno. Non ho niente di particolare da dire. W viene silenzioso ogni notte, ma è diventato molto inquieto. Il rumore è solo un pochino. La vecchia stracciaiola. 11 giugno. Oltre W è venuta anche una orribile figura di donna, un vero monstrum. Ho paura. 14 giugno. Visti due figure di uomini nel primo banco dell'altare della cripta. Mi si presentarono così naturali, che mi inginocchiai nel banco dietro di loro per vedere chi era. Solo allora mi accorsi che cosa era. Indossano lunghi abiti neri, sono di un altro secolo. Io diedi loro dell'acqua santa dalla grossa pila, erano spariti. Sentita la musica, W qui per poco tempo. 16 giugno. Di nuovo la mostruosa donna, mi sembra di conoscerla, però non posso ancora affermarlo con certezza. Solo che è sommamente antipatica. Ho visto in chiesa il cavaliere. 17 giugno. La donna qui per un pezzo, l'ho riconosciuta. È una vecchia stracciaiola. Si chiama Blochem Nandl. Era il terrore della mia infanzia, ed era temuta da tutti. Credo sia morta verso il 1893 circa. 18 giugno. W pare non venga più. La Nandl però fu ancora molto difficile, ho di nuovo sentito la musica. 19 giugno. Corpus Domini, potei vivere qualche cosa di bello. Salii sul monte, proprio quando veniva data la benedizione col Santissimo all'ospedale. Allora vidi gli 11 che si prostarono per terra, come avevano fatto una volta a Natale. Fu una cosa tanto commovente che dovetti piangere. Che abbiano visto l'incredibile? Nota. Quanto soffrirebbe oggi la principessa che visse tutta per la Santa Messa e della Santa Comunione e fu tanto contenta dell'adorazione degli 11? Oggi dov'è il Mysterium Fidei? Lo stesso mistero della fede è negato o messo in dubbio da molti sacerdoti e religiosi e teologi. Chi saranno questi 11 che assomigliano ancora a colonne di nebbia? Quando splende il sole essi sono straordinari. 20 giugno. Proprio mentre stavo per flagellarmi per W, egli fu accanto a me con espressione gioiosa e mi disse: «Mi hai liberato». Risposi: «Non io, ma la misericordia di Dio. Lui, per mezzo tuo». «Io, adesso dove vai?» «Lui, in una sfera superiore». «Io, ma dimmi quando potrò fare in modo che le povere anime non vengano più». «Lui, sii generosa». Poi se ne andò lasciandomi come avvolta in una nube di luce. Presto dopo venne la Nandl, ma io ero così contenta che questa volta non ci badai. Di nuovo musica. 21 giugno. Ho visto il cavaliere in chiesa Nandl molto difficile, addirittura ostile. 22 giugno. Tanto frastuono in camera che fui sconvolta da mille paure. 23 giugno. Ho visto la Nandl 4 volte durante il giorno. I suoi occhi sono spaventosi, diventerà sempre più difficile. Dal 23 giugno fino al 14 luglio. Sempre la stessa cosa, troppo difficile da viverla, troppo noioso da scriverlo. Blochem Nandl ora ha parlato. Io, come posso aiutarti? Lei, guarda che cosa mi manca. Lei mi venne molto vicina e così vidi sul suo volto l'espressione di una tale tristezza quale non vidi mai sinora. Hai nostalgia di Dio? Lei, sì. Io, devi stare ancora a lungo senza vederlo? Lei, non sono ancora pura. Io, posso aiutarti a diventare pura? Lei, donami il sacramento. Io, devo offrire per te la Santa Comunione? Lei, sì. Io, quante volte? Lei, 7. Io, perché proprio 7? Lei, tante volte indegnamente. Poi ha preso a piangere in una maniera impossibile ad una persona. Era come uno scorrere nel dolore. Non potei fare altro, la abbracciai. Quando mi guardò dopo, tutta la cattiveria, il male, l'orrore era sparito, per ritornare però il giorno dopo in maniera anche più grande. Tanto che credetti di non riuscire più a guardarla. Nemmeno elle. Nel tempo peggiore ha avuto una espressione così ripugnante. Poiché umanamente parlando o secondo il nostro modo di pensare umano, una cosa simile non esiste, non la posso nemmeno descrivere. finora sono sempre stata tranquilla e in pace quando avevo male, ora questo sembra passato ormai. Se voglio essere sincera, devo dire quasi non ne posso più, tanto sono diventata povera e miserevole nella mia fiducia in Dio. 18 luglio. Fu eccezionalmente difficile. Le chiesi: perché mi tormenti tanto? Io voglio pur fare quello che tu vuoi da me. Lei: tu preferisci dormire. Nel contempo mi diede un tal colpo che quasi svenni dalla paura. Ma lei ha avuto ragione, perché io ero tanto giù da non riuscire più a vincermi. 19 luglio. Lei stava seduta sul mio letto quando venni per andare a dormire. Qualche cosa mi stringeva da tutte le parti, ero come immobilizzata, ma non potevo veder niente. La cosa durò alcuni minuti. Vuol dire che ci sta qualche cosa ancora accanto a me. Finalmente verso mattina potei coricarmi. 20 luglio. Tanto frastuono che non potevo nemmeno pensare di dormire. Blokemnandl è di nuovo diventata muta. I suoi occhi sono molto impressionanti. È come se ne uscisse una forza che ti costringa a guardarla. Ho anche l'impressione che mi vengano portate via le forze. In nessuna apparizione io ho provato una cosa simile. Dal 27 luglio non ho più visto Blokemnandl. Un sollievo. Ce ne sono troppi attorno a me. Riconoscibili 7 figure, ma sconosciute. Esse si stringono vicino a me e sento le loro mani orrende che mi palpano, cosa la più spaventosa e impossibile per me. Mentre sto scrivendo ora, qualche cosa si è gettata sulla mia schiena. Era una figura di donna. Sento di non essere sola. Qualche cosa mi preoccupa, trascuro la mia anima, più nessuno sforzo per la virtù. Non posso più far niente per me, non ho fatto molto, ma almeno mi sono sforzata. 4 agosto. Una notte spaventosa. Non ho visto niente, ma sensazioni e sentite robe a non finire. Ho ricevuto anche molte botte, non mi potevo in nessun modo difendere ed avevo tanta paura. In fin dei fini non potrebbero essere stati degli spiriti malvaghi? 6 agosto. Tenevo in mano una certa mia chiave della porta, quando volli entrare nella mia stanza. Finalmente riuscii ad aprire, c'era una fitta la nebbia dentro e sentii gemere. Ho asperso con tanta acqua santa, poi la cosa andò un po' meglio. Vidi dopo 4 figure svincolarsi dalla nebbia e poi di nuovo immergervisi dentro. Ho visto 4 volte Barbara su al terzo piano, sembra molto contenta e da sorriso. Non essendo sola non potei parlarle. 7 agosto. Le 7 figure si potevano riconoscere molto chiaramente. Rimasero con me dalle 10 fino all'1. Non mi hanno tormentato, ma la quantità diventa tuttavia opprimente. Per consolarmi ho sentito la musica. Fu molto strano osservare che durante un temporale i lampi li vedevo splendere attraverso quelle figure. Era però una cosa che incuteva un grande terrore, tanto che ho preferito accendere cosa a luce. 9 agosto. Mi accadde una cosa spaventosa. Dormivo e mi svegliai con un rumore, accesi la luce ed ecco piegato su di me qualche cosa di infinitamente ripugnante, che al solo pensarci mi sento ancora piena di terrore. Era una testa gigantesca, con occhi così penetranti, quali non ce ne sono, oppure forse tutta la faccia era occhio. Tutto mi fissava in esso. Io, vattene via, che cosa cerchi da me? Lui, la pace. Io, Io non te la posso dare. Lui, tu devi. Io, cosa mi può costringere? Lui, tu devi amare il tuo prossimo che te stessa. Io, e se non ho la forza? Lui, allora prega. Poi se ne andò. Che tali parole possano provenire da una cosa così mostruosa. Adesso voglio di nuovo, poiché deve essere. Come mi educano gli spiriti. Adesso mi metto a raccontare una cosa, che mi si presentò come un saluto da parte del buon Dio. Forse è da ridere. Ma mi ha reso felice. Ero molto avvilita, tutto mi spaventava e mi tornava continuamente il pensiero, se era veramente volere di Dio, che io dovessi subire queste cose. Allora mi misi a pregare che il buon Dio mi volesse dare un piccolo segno, come mi aveva dato altre volte. Mi trovavo in giardino, ed ecco una rondine cadde di colpo sulla strada. Io la raccolsi, la accarezzai ed essa se ne volò via di nuovo. Per me fu un segno, non volli più lamentarmi. 10 agosto. Quella testa fu di nuovo qui, adesso ha pure un corpo. Domando, chi sei? Lui, Wolfango. Io, come mai puoi già parlare? Lui, è da molto tempo che io sono vicino a te. Io, e perché non ti ho visto? Lui, gli altri avevano preso la tua capacità. Io, mi vuoi aiutare? Lui, sì. Io, allora dimmi ciò che invece di peggio. Lui, tu sei divisa. Io, che cosa vuoi dire? Lui, corpo-anima. Io, lo so, devo essere solo anima ma non lo posso ancora. E che ci vedi d'altro? Lui, la superbia. Poi disparve. Fu una bella cosa, ora voglio un po' incomodare gli spiriti per conto mio. Ho sentito la musica, ho visto il cavaliere. In chiesa qualche cosa mi ha scrollato le spalle. Dal 16 agosto, ho ignorato le mie visite, perché qualcuno mi aveva dato questo consiglio. Quali tormenti furono legati a ciò, non occorre che lo descriva tanto. Basti sapere, che ogni notte vengono Wolfango e 7 figure. È molto più facile occuparsi di loro. Si prova un po' meno quanto i nervi siano ipertesi e quanta forza ci viene portata via.